Alle porte di Roma, in un'oasi verde all'interno della riserva del litorale, sorgono le case vecchie. Alla scoperta di mandrie, di ratti su colline di immondizia e polvere di cemento, escursioni nel canetto di scarica e degustazione dei fichi tossici. La nostra spa. Spa, sudore, prospettive, azione. Offre rigeneranti bagni al Tevere, step sulle barricate, tonificazione muscolare con martello e scalpello. E non perdete l'aromaterapia di merda di piccioni. Approfittate dai nostri bungalow super accessoriali. No, no, no! Il campeggio è autogestito! Il 27 maggio ci hanno sgomberato, ma la sera stessa abbiamo rioccupato e siamo determinati a resistere. Dal 21 giugno in poi venite al campeggio a oltranza di resistenza allo sgombero. Porta la tenda e cosa vuoi trovare da bere e da mangiare e ci organizziamo insieme. Di idee ne abbiamo tante. Lavori con la forgia, costruzioni con le canne, proiezioni, chiacchierate sul Kurdistan, sulla lotta armata di gruppi di donne, sul sessismo tra persone anti-autoritarie e iniziative benefit contro la repressione. È bene che lo sappiate venendo qua. Noi parliamo anche delle altre forme di potere nelle relazioni tra di noi e con chi ci troviamo. Case vecchie, in via di Dragoncello 71 ad Acilia. Le case vecchie. Las casas viejas. Le vieille maisons. Menzel Hadim. Hold houses.